settimana nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 settembre, il sole in regione è sorto alle 7.04 e tramonterà alle 18.50. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Sempre più giovani si rivolgono, o è meglio dire ritornano, al mondo dell'agricoltura. Esperienze non sempre facili, anche se l'inventiva e la voglia di fare quasi sempre riescono ad averla vinta sugli ostacoli che immancabilmente si presentano. La riprova con il concorso Oscar Green di Coldiretti, che premia le eccellenze del settore. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare al tema attualissimo del benessere animale, che deve essere considerato sull'intera vita e non solo sul momento della macellazione. Recuperiamo poi dalla settimana scorsa il pezzo sui ciclamini di Parco Rizzani a Pagnacco, che non era andato in onda in quanto abbiamo avuto un'edizione ridotta. A seguire una scheda interessantissima sul topinambur, pianta che lega il suo nome ad una tribù indiana del Nord America, diffusissima la pianta anche in regione. C'è poi una new entry nelle rubriche di Vita nei Campi che si interessa di sicurezza alimentare, tema oltremodo di attualità nel settore primario. Per lo spazio della gastronomia un classico, il Tocin Braide, che al di là delle rivisitazioni stellate affonda le radici nella storia alimentare regionale. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Giovani agricoltura è un tema sempre d'attualità, che in questi giorni ha visto la premiazione del concorso Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa, un concorso a livello nazionale. Cogliamo l'occasione per parlarne anche noi con Anna Turato, che è il delegato regionale di Giovani Impresa. Oscar Green è un concorso promosso appunto da Coldiretti Giovani Impresa, che assegna riconoscimenti in 6 categorie. Categoria Impresa 3. Terra, abbiamo consegnato la premiazione all'azienda agricola Fannagia Giampaolo, che si occupa di micropropagazione in vitro. Per la categoria Campagna Amica è stata premiata Orto in Tasca, un'applicazione per smartphone che consente di fare le ordinazioni online dei prodotti direttamente dalle aziende agricole. Categoria Creatività è stata premiata Green in Box, un'idea di 2 ragazzi, Enrico e Luca, che hanno appunto inventato questa lettiera di prato erboso disponibile in dei cartoni e che vendono tramite e-commerce. Categoria Fare Rete, la premiazione è stata data a Sincero Rete d'Impresa, che è una rete di aziende vitivinicole, ortofrutticole e agricole in generale della nostra regione. Noi per il sociale, azienda agricola Lis Neris, per la Francesca Pecorari Onlus, che è una onlus che utilizza come testimonial un vino dell'Lis Neris che si chiama Fatto in Paradiso, e hanno insomma contribuito alla realizzazione di scuole e asili in India, Uganda e Myanmar. E da ultimo, per la categoria sostenibilità, è stata data la premiazione l'agriturismo Silicanum, un agriturismo che è diventato un agri residence per persone anziane. Questi si può dire ce l'hanno fatta, e tutti sì. Gli altri giovani che vogliono entrare nel mondo dell'agricoltura, che problemi si vedono davanti? Innanzitutto devo dire che c'è un grande ritorno comunque dei ragazzi in agricoltura. Questa è una cosa che io, come insomma all'interno del mio comitato, è una cosa che vediamo. I problemi principali che i giovani riscontrano è sempre un problema a livello informativo. Non sanno mai bene che tipi di finanziamenti possono esserci in agricoltura, che tipi di aiuti, e quindi è un problema, diciamo, proprio che parte dall'idea di come posso avviare la mia attività agricola. E qui incappiamo subito nella farraginosità del PSR, soprattutto dei fondi per i giovani. Non sono stati distribuiti ancora del tutto, comunque ci sono i bandi per i premi giovani che sono ancora in piedi. C'è, ma è difficile da gestire. È difficile da gestire sicuramente per, diciamo, anche questioni burocratiche, è molto complesso come pacchetto. Giovani, agricoltura e mondo del credito, un altro scoglio. Noto che trovano sempre difficoltà a capire come poter accedere al credito, quindi quello che manca sicuramente è qualcosa di a livello anche proprio informativo, spesso non sanno come muoversi effettivamente. La politica regionale per questo settore sta facendo abbastanza? Beh, devo dire che noi siamo quasi a conclusione del PSR, perché il nostro PSR si concluderà nel 2020 e nel 2021 dovrà essere già pronto il nuovo pacchetto. Quindi io penso che l'assessore e la sua squadra terranno conto del fatto che è necessario semplificarlo sicuramente, renderlo più accessibile per tutti, anche poi soprattutto per noi giovani. Idee ce n'è, secondo lei, innovative? Sì, le idee ci sono, i giovani anche, ed è bello vedere che non tutti se ne vanno, ma c'è chi decide di restare nel nostro territorio, di investire in ambito agricolo, quindi penso che sia giusto trovare il modo di far emergere questi giovani e le loro idee. L'argomento è oltremodo d'attualità, stiamo parlando di benessere animale. Oggi Cristina Micheloni per la rubrica del bio ci tiene a sottolineare però che non si deve limitare solo al momento della macellazione. Io mi preoccuperei anche di come vive l'animale prima di arrivare alla macellazione. Siamo consapevoli che una vacca o un vitello che non escono mai dalla stalla non hanno mai l'occasione di pascolare o di mangiare erba, piuttosto che un maiale che appoggia per tutta la vita i piedi su una griglia. Non voglio fare del terrorismo alimentare, per cui non do altri esempi cruenti, non è il caso, però credo che in questo momento il rapporto con gli animali che alleviamo a scopo alimentare sia in un momento di cambiamento. E allora, per non arrivare all'estremismo, che non è mai un buon consigliere, forse dovremmo cominciare a guardare a come vengono allevati gli animali da cui proviene il latte, le uova e la carne che mangiamo, andare a conoscere questi allevamenti, perché ci sono delle forme di allevamento, non solo quelli bio che per regolamento danno una serie di vincoli, ma anche dei piccoli allevamenti locali che invece a queste cose ci tengono, e quindi il rapporto con questi animali e da allevatore e da consumatore è ben diverso. Io sono anche un po' preoccupata perché quando si arriva a un estremismo, si arriva a dire vabbè, allora non mangio più nulla di origine animale, quindi diventare vegani è una scelta che rispetto, però credo ci siano anche delle scelte un po' più morbide, un po' più facilmente percorribili, che passano per di nuovo la consapevolezza di che carne, che uova e che latte e formaggio io consumo, anche perché l'estremismo di non mangiare più nulla di origine animale sta imboccando una strada che non è così sostenibile anche ambientalmente o socialmente come ci sembra, che è quella di prodotti della grande famiglia che viene chiamata meat analogs, ovvero dei prodotti fatti con micoproteine piuttosto che con microalghe, oppure con altre tecniche abbastanza sofisticate e lontanissime dalla realtà agricola. E come dice Ottontona, il buon Enos Costantini, ogni volta che chiude una stalla perdiamo tutti, perdiamo cultura, sapori, paesaggio, biodiversità e dei saper fare che poi non riconquisteremo più. Quindi chiudere le stalle per passare a pranzi sostitutivi o analoghi della carne probabilmente non è quello che vorremmo, se andiamo a guardare bene che cos'è un'azienda agricola, come possono essere allevati gli animali e come si può costruire un rapporto diverso con essi. Nel parco Rizzani di Pagnacco, sotto gli alberi secolari, è possibile ammirare grandi distese di ciclamini selvatici ora nel momento della massima fioritura. Per vari motivi il parco merita di essere scoperto e frequentato, non è così Franca Merluzzi? Il parco è pubblico e si trova a nord-ovest dell'abitato di Pagnacco. Entrati, l'attenzione va subito alle distese colorate di rosa, con sfumature più chiare e più scure, ai piedi del secolare cedro del Libano dai rami a candelabro. E percorrendo il vialetto di sinistra si scopre che qui c'è un'eccezionale fioritura di ciclamini selvatici. In alcuni punti sono tantissimi. In questo periodo hanno poche foglie. Sbucheranno più tardi e le manterranno per tutto l'inverno. Nel parco i ciclamini si sono naturalizzati ottimamente e si propagano anche in angoli lontani e ogni anno rifioriscono dalla fine di agosto a ottobre. Nel prato centrale si erge una magnolia cobus dalla forma cupola, i vialetti sono ombreggiati da tigli, querce, faggi, abeti dalle altezze notevoli. E troviamo anche qualche cespuglio di bosso e di tasso. Appartato, ombroso e romantico è il belvedere in alto, con la vecchia sofora dal tronco contorto. Il parco era parte della villa costruita per la villeggiatura estiva della famiglia udinese dei Rizzani, assieme agli annessi rustici e a una cinquantina di ettari per uso agricolo. Il parco è gestito dalla regione, è veramente ordinato e curato in ogni particolare. Sul declivio si coltivano, come un tempo, alcuni alberi da frutto e per il visitatore la tentazione è forte di cogliere almeno una di quelle melette gialle profumate ormai mature. Topinambur, un nome poco conosciuto per indicare una pianta diffusissima anche in regione, pianta che arriva dall'America e, come ci dice Antonino Danelutto, ha conosciuto miglior fortuna di altre. Quando agli inizi del 1600 il topinambur venne introdotto in Francia dal Canada, nessuno si sarebbe aspettato una simile benevola accoglienza, a differenza delle altre piante americane che, fin dalla loro comparsa in Europa, venivano coltivate solo negli orti giardini. Così il pomodoro e il girasole erano solamente ornamentali, la patata dolce era considerata un afrodisiaco, il tabacco e il cacao medicamenti, il fagiolo un cosmetico, il mais becchime per colombi e polli o foraggio per bestiame, la patata un nutrimento per asini, cavalli e bovini. Invece il topinambur piacque subito soprattutto come pianta alimentare oltre che ornamentale, e la sua coltivazione si diffuse rapidamente in tutta l'Europa occidentale. Solo nel Settecento la patata in parte lo soppiantò temporaneamente perché accusato falsamente di provocare la lebbra. Il topinambur, il cui nome è legato ad una tribù indiana nordamericana, è detto anche girasole del Canada o patata del Canada. Il nome scientifico è Helianthus tuberosus, quello friulano cartufule o cartufule todeschie. È pianta perenne, ispida, con rizomi ingrossati in tuberi irregolari commestibili e con fusto eretto alto fino a 2 metri e più. Le foglie sono grandi, ovate lanceolate, acuminate, con margine dentellato. I capolini sono giallo dorati, grandi, del diametro di 5-7 centimetri. Di solito viene coltivato per i suoi tuberi, ma è anche spontaneo nei rudereti, negli incolti, nei greti fluviali, risultando talvolta infestante. Nella nostra regione è diffuso un po' dovunque. I tuberi hanno un gusto simile a quello del carciofo. Raccolti in autunno al momento del consumo per evitare che si disidratino, dopo essere lavati e pelati, vengono solitamente stufati con burro, olio e prezzemolo, lessati e conditi a fette in insalata o cotti al forno. Sono utilizzati anche fritti come le patate, in frittelle, purea, risotti, minestre, frittate. Nella cucina tradizionale piemontese, lessati costituiscono una apprezzata verdura da intingere nella bagnacaula. Secondo la medicina popolare, i tuberi favorirebbero la digestione e ridurrebbero il colesterolo. Per l'alto contenuto di inulina, uno zucchero che si scinde in fruttosio e non in glucosio come l'amido, sono particolarmente indicati per i diabetici. Vita nei Campi oggi inizia una nuova rubrica che si intitolerà Qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Ce la curerà Claudia Fontanini, responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. Passiamo subito al primo argomento, qualità alimentare. Cosa si intende e quali sono le componenti principali? Qualità è un termine molto usato, ma che cos'è la qualità? È uno di quei concetti che intuitivamente capiamo, un po' come il famoso tempo di Sant'Agostino. Se nessuno ce lo chiede sappiamo benissimo cos'è, ma se poi cerchiamo di spiegarlo siamo in difficoltà. Possiamo arrivare a darne una definizione abbastanza facilmente partendo dalla constatazione che quanto più un prodotto soddisfa le nostre aspettative, quanto più ci dà quello che ci attendiamo, tanto più lo percepiamo come di qualità. Diventa allora chiara la definizione tecnica secondo cui la qualità è il grado in cui un insieme di caratteristiche di un prodotto soddisfa i requisiti. E cosa ci aspettiamo da un prodotto alimentare? Quali sono i requisiti che deve soddisfare? Innanzitutto che non ci faccia male, quindi la sicurezza igienico-sanitaria, garantita dal rispetto della relativa normativa. Che ci nutra, parliamo allora di valore nutrizionale, che è legato all'apporto di energia ai principi nutritivi. In merito a questo aspetto possiamo avere importanti informazioni dell'etichetta. Che ci piaccia, la cosiddetta qualità organolettica, rappresenta la capacità di un alimento di soddisfare le aspettative di sapore, profumo, colore e aspetto dei consumatori. È un requisito fondamentale per l'accettabilità dei cibi. Non è oggettiva e misurabile come le precedenti, è infatti legata a gusti personali influenzati da fattori sociali, culturali e psicologici. la qualità merceologica, relativa a caratteristiche quali la conservabilità, la comodità d'uso, il peso, il costo, ancora la qualità di origine, riferita a origine e tipicità. Pensiamo ai prodotti agroalimentari tipici tutelati come il Montasio DOP. Si rileva poi un interesse crescente da parte del consumatore non solo per il prodotto in sé, ma anche per le modalità con cui è stato realizzato. In merito a questo possiamo parlare di altri due aspetti della qualità, la qualità ambientale e la qualità etica, che sono relative al rispetto di tutto ciò che ci circonda, dell'ambiente, del benessere animale, ma anche dell'uomo e dei suoi diritti. Per esempio, il marchio di qualità della regione Friuli Venezia Giulia, acqua, agricoltura, qualità ambiente, si focalizza proprio su rispetto dell'ambiente, filiera corta e tracciata, attenzione al benessere animale. Il Touching Braide si può considerare un'invenzione del mitico chef della Roma di Tolmezzo, Gianni Cosetti, ma come ci racconta oggi Roberto Zottar, è un pilastro della gastronomia regionale e non solo. La canzone istriana «Se il mare è il fusse de tocio, le montagne de polenta» o «In mamma che tociade» potrebbe essere rappresentativa anche del Friuli. La polenta era il piatto da condire con qualsiasi cosa, una vera ossessione il tocio. Tutto doveva fornire tocio abbondante con un labile confine tra pietanza e condimento. Tradizionali in pianura, i toci ricavati dagli animali da cortile che fornivano sughi a base di rigaglie, fegatini oppure di carne trita. In montagna l'organizzazione gerarchica a tavola comportava una suddivisione iniqua delle pietanze. I bocconi migliori andavano prima al capofamiglia, poi ai malati e infine agli altri in una gradualità che si concludeva per gli ultimi nella partecipazione al piatto attraverso solo l'intingolo, il tocio appunto. Tocià, toccare il pane o la polenta nel sugo era anche la metafora del percorso esistenziale. Si passava dalla voracità inappagata dell'infanzia, fatta di bocconi rubati, alla corposità dell'età adulta, fatta di bocconi stabiliti, per arrivare alla vecchiaia che portava ad una rassegnata resa al boccone morbido per problematiche di denti. Tutto nel sugo, speranze, pazienza, attesa, godimento, ricordo. La forza del verbo tocià trova conferma nei nomi di molti sughi carnici. Toci di Westy Pursuit, cioè sugo di ossa di maiale, toci di Luianie, toci di salsiccia. Toci di salam, di salame, toci di vores, sugo per braccianti, toci di puina, di ricotta, toci di nono, detto anche toce chi e toce lì, toci di lave pit, cioè sugo di lavapiedi, e il toci di mei, di mele. Sostanzialmente il sugo, il toch, nasceva dall'utilizzo di burro cotto, strutto, lardo o altri grassi animali, elaborati con farina di mais, latte o succhi vegetali. Invenzione geniale il condire la polenta con un sugo di polenta. Il Touching Braide, l'intingolo del podere, merita un approfondimento. Da piatto povero è diventato di alta cucina grazie a Gianni Cosetti, mitico chef carnico. L'invenzione di Cosetti è stata nell'accostare al piatto tradizionale a base di polenta e creme di formaggi, punti di asparagi o una fritturina di capretto in primavera, in estate o inverno una fettina di foie gras o porcini trifolati o tartufo bianco. Insomma, un Touching Braide per ogni stagione. Per realizzarlo, fate bollire in una casseruola un bicchiere d'acqua e uno di latte, salate e cuocetevi per mezz'ora una polentina morbida fatta con 3 etti di farina di mais fine. Per la crema, fate fondere a bagnomaria in mezzo bicchiere di latte 3 etti tra formaggio di malga, ricotta fresca e caprino e infine frullate. Per la morchia, rosolate 100 g di burro e 150 di farina di mais finché diventino color nocciola. Nei piatti versate la polentina calda con sopra un mestolino di crema di formaggi e condite con 2 cucchiai di morchia. Buon appetito! Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni cereali con la Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Quello con 25 di umidità non trattato alla Camera di Commercio viene pagato a 13,20 il quintale. Il frumento terreno buono mercantile tra 19 e 19,30, l'orzo tra 19,50 e 20 euro e la soia nuovo raccolto tra 32 e 32,50. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è rimasto invariato e quello della soia è diminuito di 3 euro al quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini e macello quotano le vacche fine carriere di prima qualità a peso morto tra 2,50 e 2,90 euro al chilo. Quotazioni ferme pure nel settore dei vitelli da ristallo, dove i bulbelga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,50 euro al chilo IVA esclusa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,30, i bruni tra 1,70 e 2 euro al chilo. Andamenti flessibili nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 1,93 euro il chilo, IVA esclusa, e i grassi da macello a 1,35 il chilo. Il latte naturale di vacca franco stalla, compresa la refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 0,3650 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, scambi attivi sui mercati avicoli con i poli a terra pagati tra 1,08 e 1,10 euro il chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,35 e 1,37, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,20 e 2,24, i conigli oltre i 2,5 kg quotati dal CUN di Verona tra 2,09 e 2,15, le uova da 63 a 73 grammi a 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Marcellino Salvador, l'andamento del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Proponiamo il riepilogo meteo di settembre, che oggi si chiude. Il mese è iniziato come quello dell'anno precedente, con l'arrivo di un fronte piuttosto intenso, e ricordiamo il temporale localizzato su Lignano, con piogge molto intense in poco più di un'ora. La prima decade è proseguita incerta, con delle piogge sparse e dei temporali, ma anche qualche giornata soleggiata e temperature nelle norme. Nella seconda decade, invece, tempo estivo, con temperature massime sui 30 gradi, che a fine decade toccano anche i 32 in pianura. Il caldo è proseguito anche il primo giorno della terza decade, così il mare ha fatto registrare ancora 25 gradi. Mai dopo il 20 settembre la temperatura del mare aveva superato i 24. Poi per qualche giorno il tempo è peggiorato e si è avuto un temporale ancora una volta molto localizzato nella zona di La Tisana, dove sono caduti oltre 60 mm. Nell'ultima settimana correnti secche da nord, fredde inizialmente in quota, hanno favorito cielo sereno con temperature dapprima basse e minime che il 26 sono stati di soli 2 gradi in pianura, valore che ha paragoni per il periodo solo 40 anni fa, nel 71 e nel 77. Poi la temperatura è risalita velocemente, tanto che venerdì scorso si sono toccati ancora i 30 gradi. Anche sui monti le giornate di questa settimana sono state stupende e anche molto miti tra giovedì e venerdì. Notevole l'escursione termica del periodo, con oltre 20 gradi di differenza tra notte e giorno in pianura e nelle valli. Il mese è stato in genere secco, con valori di pioggia pari al 30% del normale. Fa eccezione la zona tra Lignano e La Tisana, che ha avuto piogge nella norma a causa dei due temporali di cui si è già parlato. Nonostante il freddo notevole per la stagione intorno al 26, il mese rimane quasi 2 gradi più caldo della norma, ed è questo il sesto mese di fila con temperature sopra la norma, tanto che a tre quarti dell'anno viaggiamo un grado sopra la media climatologica annuale, in linea con gli anni più caldi in assoluto. Passando le previsioni tra domani e pomeriggio e martedì, saremo interessati da un fronte freddo atlantico che porterà delle piogge e la neve in quota sulle Alpi. Sulla costa nella notte soffierà bora forte. Già martedì pomeriggio tornerà il sole e il bel tempo proseguirà anche a metà settimana con temperature massime oltre 20 gradi su pianura e costa. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffusi anche dai notiziari RAI regionali, nonché resi disponibili sul sito www.meteo.fg e sulla telefonia mobile. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: San Michele, la cistina è tal fosel, ovvero San Michele, il 29 settembre, la castagna è già nel fosso, ovvero il riccio si è aperto e il frutto è caduto a terra, segno che è maturo. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/FVG. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e Rita Micoli, assieme a tutta la redazione, vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.